Capitolo 6. Passo del San Gottardo. 17 maggio 1545. Non avrei dovuto farlo. Tornerò a controllare i gesti, la mente. Buffa, sublime, paurosa visione. Oppure abbandonarmi completamente? I boschi ondulati del Mittelland, fino a raggiungere l'Are. Poi lentamente sul piatto e largo barcone, passando Holten, Sursee e finalmente Lucerna, all'estremità profonda del cupo lago dei Cantoni, dove incrocia la Reuss. Da lì, a dorso di mulo, due anzi, uno per il bagaglio e i libri di perna, tra le centinaia che risalgono carichi i fianchi del torvo Monte Pilatus, sbuffando su sentieri spesso impervi, ma fitti di traffico e umani e carri e bestie. Su e giù da questo transito obbligato di pendii assolati e prati alpestri, di foreste selvagge splendide, contornate di vette aguzze, nitide d'aria pungente tagliata alle estreme altezze dalle ali del falco pellegrino. Limpida mattina di primavera. Assaggio la tonica ebbrezza dell'alta quota. Osservo il varco improbabile su una nuova stagione. Il valico, che da Andermatt porta a Airolo, San Gottardo che guarda il suolo italiano. Devo essere completamente pazzo. Un vecchio uscito di senno che da queste montagne rotola verso il grande bordello del mondo che guarda in faccia il turco. Buffa e sublime visione. Panico che irradia torpore alle membra. Un capriolo guizza fulmineo tra gli alberi. Potrei morire ora, nell'estasi di una terribile euforia, nella paralisi del sole caldo sopra muscoli invecchiati e dolenti. Ora, senza sapere chi sono, senza un piano e con due pesanti sacchi di libri. Prima che l'assurda inerzia riprenda, che l'insensato intelletto torni in sella quel mulo. Due sacche. Guardo le scoscese valli italiane che precedono la pianura, fino al mare. Per incontrare gli spettri, sotto l'insegna del pozzo. Vieni con me, copritetti, perché non so chi sono. E le mie gambe non sono più salde. Ora. Bergamo, Repubblica di Venezia. 25 maggio 1545. Davvero dunque poche tirate da queste lunghe foglie arrotolate, gli aromatici sigari d'oltremare che avevo portato con me dalle terre olandesi, a quelle vette possono indurre tali intense e squilibrate emozioni? Ne sono ancora turbato, ma di quella paura simile alla vertigine dello spaesamento, del fascino dell'ignoto e della possibilità estrema, delle regioni inesplorate e della visione profonda. Diversa dall'ebbrezza del vino, birra o acquavite, senza quei fumi e l'impasto dei pensieri e la logorrea insensata. Un altro essere dentro di te, che leggero svanisce, non lasciando tracce sul corpo, ma immutate le domande. Lungo il Ticino, fino al piccolo paese di Biasca, da lì accompagnato da una guida, attraverso i sentieri di montagna, a est, verso Chiavenna, superando le valli Calanca e Mesolcina. Su commissione di Perna, per consegnare libri al circolo degli esuli riformati che, dall'Italia del Nord, affluiscono nella Repubblica Retica. Sulle sponde del fiume Mera, un luogo impervio e paludoso al tempo stesso, in parte ostruito da antichissime frane, dove la terraferma si confonde con le acque del lago di Como e montagne sterili altissime rendono difficile l'accesso. Chiavenna, la chiave delle valli, se non fosse per la posizione strategica e l'autonomia che le consente d'essere rifugio, un luogo da sconsigliare al viandante. Due giorni di sosta per riposare le ossa dalle marce alpine, e quindi di nuovo a sud, fino al punto in cui l'Adda si getta nel lago Lario. Una mezza giornata per traghettare a Lecco, ai confini, col territorio della Serenissima. Da qui, dopo tanto salire e scendere, la strada corre dritta, attraverso la pianura, fino a Venezia, con un buon servizio di collegamento, 4 giorni di viaggio.